vecchia come età e come produzione della Mantova. Noi lo usavamo negli anni 70 addirittura, si può immaginare, la Ringo è un'antenna, sì, andava bene prima, ma prima che venissero fuori le Mantova. Vero Mario, confermi che è così? Mario non riprende, vabbè dai, non ci sono problemi, già rientrerà sicuramente. Avanti Giuseppe. Ti sento, sì, ti sento, parlo, ma ti sento ancora, non è un problema. E poi ci sta, dipende dal posto dove ti trovi, magari ti sposti di un metro e ti sentiamo di nuovo, non è un problema. Al limite già siamo qua, tu eventualmente riprovi e poi noi già ti rispondiamo. Tanto noi da stazione fissa abbiamo una recezione di gran lunga superiore a quella che potresti avere tu in macchina, capito? Dunque non è un problema. Se per caso per un momento non ci senti, ritorna, non è detto che siamo andati via, ma non credo, perché a noi ci dovresti sentire sempre. Vediamo se è rientrato Mario. Mario, sei rientrato? Ehi, a capo, ero a capicolino. Niente, là. Ho detto, tanto magari si allungano un poco con il discorso, mi approfitto, invece mi avete chiamato prima, giustamente io ero assente. No, niente, io la Ringo, non la piglierei manco se me la regalano per piacere sul tetto. Perché uno non c'ha gli stessi guadagni, poi è un'antenna vecchia, ma non vecchia, no, di più. Per la Ringo e la Ringo non mi piglio una Grand Prix. Allora, almeno sono sicuro che con la Grand Prix riesco. Non ci sono problemi, capito? Niente, solamente che la Grand Prix c'è lo svantaggio dell'ingombro, perché avendo i radiali a ruota invertita pigliano più spazio, là hanno più bisogno di luce. Niente, la Mantova per me è la migliore cosa, e poi le stavo dicendo che se c'è la cabina dell'ascensore non c'è bisogno né di muratore né niente, si piglia di quei tassini in ferro, di quella espansione, gli mette il STO, fa tre buchi, gli piazza, ci fila il tubo e poi c'è sopra ci mette l'antenna, e il gioco è fatto, non c'è bisogno né di muratore né niente. Sì, sono d'accordo anch'io Mario. Oggi con un tassellatore puoi mettere tutti i tassi resistenti quanto tu desideri, non ce ne sono problemi, perché ho potuto constatare, poi tu mi basta fare questo ragionamento, le parabole della televisione, oppure che so io, le macchine del termoconvertore, eccetera, sono fissate tutti quanti con questo sistema qua. Dunque, quella è cosa anche pesante, tra l'altro, una parabola ad esempio prende tanto di quel vento di gran lunga superiore a quello che può essere una semplice antenna per il baracchino, ci va a credere. Perciò è regge, e dunque se non regge quello, figurati se non può reggere l'antenna del baracchino. Altro che ciò che conta è che il muro sia buono, che non sia di quel muro tutto quanto marcio o farinoso, come lo vuoi chiamare, allora il discorso cambia. Però se il muro è buono, problemi non ce ne sono, ma suppongo anche perché la cabina dell'ascensore generalmente è fatta addirittura in cemento armato, mi sembra la parte finale, si può immaginare se non è buono col muro, allora cosa può essere? Non è così Mario? Capo del positivo, però bisogna vedere Giulio, perché se uno non c'ha l'occhio, potrebbe pure trovare i blocchetti, però lì si tratta di avere l'occhio, di guardare dov'è la giuntura dei blocchetti, capito? In modo che trovi lo spessore più grosso, perché se trovi il blocchetto in pieno, dentro è vuoto e forza non è fa, lì bisogna avere l'occhio e di fare i buchi dove c'è i due blocchetti attaccati assieme, fare i buchi sempre lì, capito? Mette 1, 2, 3 ed è a posto, però ci vuole l'occhio clinico. Sarebbe meglio. meglio, trovare il pieno sarebbe anche meglio. Comunque anche nel vuoto lo mandi in profondità, Mario, utilizzando, sostituendo il bullone del casello, sostituendo magari con un bullone più lungo, o addirittura prendendo un ferro filettato e mettere il bullone falso, o il doppio bullone magari, in modo che con le vibrazioni non si allenta il dado, capito? E va che è una meraviglia. Io, tu lo sai, questi lavori li faccio sempre, perché piazzano le scale, piazzano insomma cose molto pesanti nel mio lavoro, e so benissimo cosa reggono quel genere di tassilli, usando magari una barra filettata se il caso, capito Mario? Sono delle tecniche oggi all'avanguardia, molto consistenti. Se poi uno vuole essere ancora più pignolo, basta usare il tassello chimico e allora è la fine del mondo, perché ne deve cadere il blocchetto intero per potersi attaccare la gappa, capito Mario? Gappa del positivo, Giulio, ma io queste cose non le devo spiegare a te, capito Giulio? Perché tu lo so che lo sai come lo so io, che ci sono diverse strutture e diverse situazioni e diversi metodi di lavoro. Io lo stavo dicendo per Giuseppe, siccome suppongo che come gli ho detto io che non c'è bisogno del muratore quello e quell'altro, suppongo che si metterà lui a farlo, però a questo punto qui dovevo dire che dovevo guardare dove fa il buco, perché se il buco, perché tu lo sai che se è un blocchetto, anche se è pitturato, se tu li intraguardi il segno del blocchetto si vede, così che gli fai il buco dove vedi che è la fila, capito? E gli fai dove c'è la giuntura del blocchetto, che anziché essere spesso, non so, 5 mm quasi da 10, perché tra una testata e l'altra più il cemento, lì trova il pieno e ci va la grande. Certo, certo, ma è così Mario, ma è chiaro, trovi più consistenza e giustamente regge meglio il coso, ma se il telefono, ma sta rispondendo laggiù, adesso io non mi alzo da qui. Stavo dicendo, vediamo un po', Giuseppe avrà sicuramente capito tutto questo che abbiamo detto, e così almeno vediamo un po' qual è la sua impressione. Avanti Giuseppe. Buongiorno anche da parte mia, adesso ti ascolto, prima no, non ti ascoltavo. Sì, buongiorno anche da parte mia. Ma tu, io non voglio fare la base dello demonio, ma tu mi pare che io c'è tre e sei ancora in bianco dalla prima lì. Ragione c'hai Mario, c'è ragione. Dai dai, già non è niente, pregatene. Comunque l'amico Giuseppe mi sta arrivando 7 qua adesso, non so dove si trova, prima non mi arrivava niente. Va bene? A radio 5 pulita normale. Infatti uscissi un pochino recentemente. Ecco, sono rientrato, È tornato il studio. Ok, allora riprendo di nuovo, dai. Stavo dicendo, era il telefono che stava rompendo l'anima, vabbè, stavo dicendo, poc'anzi ti ho sentito parlare di un'antenna, di un antennino da balcone, il 20 tornado, come cavolo si chiama, 27, in merito a quello si può dare qualche informazione a Tugno, che lui con l'antenna l'ha utilizzata per diverso tempo, ma suppongo che adesso l'ha cambiata, perché vedo che il suo segnale è di gran lunga superiore al segnale che aveva prima. Avanti Antonio, com'era l'antenna che avevi? Tornado, com'era? Tornado 27, un qualcosa del genere? Tornado 27, no, già rende come antenna, se la metti sul tetto va, certamente non è un'antenna fortissima, però va bene, è della Midland. Una torre 26. questo guadagno, però va bene, qualcuno ce l'ha avuto sul tetto e ci va bene. Non è molto grande, non è, però a me mi è sempre andata bene. L'ho dovuta togliere perché era troppo bassa qua. Sul balcone c'avevo qualche problemino. L'abbiamo utilizzata, io l'ho utilizzata per tanto tempo, va bene. La vende Tonino a Sassari, la GBC, va bene. Sì, Tonino lo conosco, ma l'ho vista ieri come si chiama, eBay, e la stanno dando per 35 euro. Così costa. Non è molto alta, adesso non mi sembra che sia un metro, sia, non è molto alta, però va quello che va, ti sentono, sei sopra un palazzo già, a voglia. Ci sono anche le misure del capo, quando te la vendono, ti danno tutte le misure, ti danno da fare. Vivete. Avanti Mario. Giuseppe. Sì Mario, dimmi. La cabina dell'ascensore sporge dal tetto, sì. Non abbiamo ascensore noi Mario, e la nostra è una palazzina di tre piani. Ah, cappagappa, non c'è ascensore, ecco perché. Guarda, non so cosa dirti. Fai un buco nel comignolo, proprio il comignolo dal palazzo, dal tetto. Proprio la punta del tetto, fai un buco che fai, che pigli una spezzone di tubo in ucinci, diciamo così, che è bello forte, se fai un buco metti il tubo e riempi il cemento e ci metti solo cemento, ti pigli mezza calderella di cemento, tu fai un buco, proprio un buco con, aspetta come si chiama quello lì, sono tipo frese solo, no? Che tu attacchi al trapano e lì ti fai il buco preciso come il tubo. Poi che cosa fai? Pigli il cemento, lo fai a acqua, tipo Biarone, non so se mi hai capito quello che ti voglio dire, ci metti il pezzo nel tubo e poi ci butti dentro questo Biarone. Quando quello lì asciuga, vai tranquillo che ne devi buttare giù il tetto per toglierlo. E il tubo non ti pigliare quello in ferro, ma te lo devi pigliare o in acciaio lo spessore del tubo, o quante per no di quel tubo zingato, in modo che non pigli il ruggine facilmente, capito? E poi dentro ci fili l'antenna. Ma il tubo dell'antenna ce l'avete sul tetto? Positivo Mario. Oh, guarda che diametro c'ha quel tubo. Perché secondo che diametro ha, se fa per esempio un pollice e un quarto come diametro, pigli e glielo cambi, metti il palo dell'antenna e gli metti tutto un palo leggermente più alto di quello lì. Sotto le riattacchi le antenne, sotto la... e sopra ci metti l'antenna del baracchino. Esatto. Sì, ho capito Mario, ed è mi sa che la soluzione che provo senz'altro, perché io ho provato anche capito, ma se tu vedi il punto dove c'è l'antenna del palazzo, l'antenna TV, tu guarda lì che diametro c'ha il tubo, perché se no che cosa fai? Mettogli quello lì, allarghi il buco, lo allarghi con queste prese che ci sono, adesso non mi viene il nome, adesso mi è venuto, hai visto? Si chiamano calotatrici, che quello lì tu l'attacchi al trapano e ti fa il buco preciso, preciso, preciso. Che cosa fai? Ne togli quella lì che c'è, con la calotatrice fai il buco nello stesso posto, però glielo fai leggermente più largo e ci metti il tubo da un pollice e un quarto, che va benissimo. E lo tagli, per dire, a 2 metri, ai 2 metri sopra ci metti l'antenna del baracchino e la blucchi, e poi sotto l'antenna del baracchino riattacchi le antenne TV e vai alla grande e non disturbi nessuno ed è un lavoro molto pulito. Di positivo, tu guardati quelle cose lì, cioè nel frattempo ti puoi ordinare l'antenna, nel frattempo che arrivi una cosa e l'altra, poi ti guardi bene quello lì e vedi di trovarti una calotatrice, se per esempio il tubo è troppo stretto, se c'è il tubo che è da tre quarti, è troppo stretto, non ci riesce manco a metterci l'antenna del baracchino sopra perché è più largo, perché l'antenna del baracchino se non va errato infila dentro il tubo di un pollice e un quarto, adesso non mi ricordo bene. Comunque tu guardati quello lì, poi eventualmente che cosa fai? Ne strappi quella che c'è di antenna, proprio il palo, ne lo togli, lo tagli con un seghetto, pigli la calotatrice, perché la calotatrice, essendo più grosso come buco, ci passa sopra, capito? E il tubo manco lo tocca, ne fai il buco e ne togli il pezzettino che c'è e ci metti uno di quelli da un pollice e un quarto, poi pigli o qualche arone col cemento rapido oppure lo fai con il cemento normale, solo che col cemento rapido tu lo fai a miarona tipo acqua e glielo butti dentro, lui come fa presa quello lì non lo muovi più, oppure ce lo metti cemento normale, però quello lì devi aspettare almeno un giorno il tempo di asciugare e di fare presa, capito? Perché il cemento normale ci mette più tempo ad asciugare, ma se lo fai col cemento rapido in un paio d'ore ci puoi già mettere il tubo, l'antenna sopra. Sì Mario, ho capito perfettamente e mi sa che faccio proprio così, perché niente, è inutile stare a girarsi intorno con le fatto e niente, lo faccio. Pagata, no, anche perché quelli lì sono i lavori migliori e più ben fatti, perché quando tu fai un lavoro fatto serio, che non crei problemi a nessuno, è meglio per te, perché sennò poi ami, è salito sul tetto, ha rotto le tegole, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, e invece tu ci devi salire una volta e guardarti bene, accuratamente cosa puoi fare. Una volta che tu hai guardato accuratamente, vedi quello che puoi fare, il discorso è come ti ho detto io, ti pigli il seghetto, ne tagli, se il tubo è da tre quarti, che è molto sottile, ne lo tagli col seghetto, con la mola, con quello che vuoi tu, ne lo tagli proprio al raso di tetto, poi pigli la calotatrice, fai il buco, ci metti il tubo, lo metti con il cemento rapido e quello lì non si muove più. Poi per togliere quello lì non dovrei buttarlo giù il tetto. Sì, ho capito Mario, grazie. Ecco, non si dice. Io, guarda, stavo perdendo la testa per come è strutturato il nostro tetto, riuscire almeno a cavarmi i piedi, però adesso già diciamo che un'infarinatura ce l'ho. Meglio così. Quindi ci sono 2 volte, però quelle 2 volte ti fai il lavoro, accuratamente e poi te ne dimentichi anche di salire sul tetto. Infatti è quello che io volevo, Mario, perché cioè, salirsi due volte e basta, perché se lo fai non fai, lo dico per sempre, ma io dico una ventina d'anni mi auguro che duri questa bellezza. Ma guarda, se non hai problemi di cornacchie come ce li ha avute Giulio, penso che una volta che la metti, una ventina d'anni, forse anche qualche duro in più ci dura, perché io te l'ho detto, ce l'ho 17 anni sul tetto e non ci sono mai più salito né a controllare né niente. Ne sono certo, anche perché qui vedo la tua città e micidiale. E la mia uscita è come tante altre, non è che diciamo che io qui c'ho campo libero perché davanti a me subito non trovo né palazzoni né niente, capito? C'è tutto pulito da una parte e dall'altra. Ho capito, Mario. Meglio così. Vediamo se c'è Giulio. Sì, che ci sono, sì, stavo ascoltando, sì, le hai dato un consiglio ottimo, Mario, infatti così. Se lui è al sottotetto, appunto, come ho intuito, il lavoro è facilmente fatto, guarda, non ci sono problemi, anzi il sistema migliore, proprio come hai detto tu, con una calottatrice fa il foro di diametro necessario, si fila il tubo e via. Però Giuseppe, tieni presente una cosa, è che la punta del tubo, io parlo della punta del tubo che metti, non credo che debba essere superiore ai 4 cm di diametro, 4, 4 e 1, perché l'antenna, io parlo dell'antenna Mantova, qualsiasi tipo di Mantova, la 1, la 5 o la Turbo, ha un bicchiere che è di quelle dimensioni, perciò se il tubo tu lo vuoi mettere più spesso di diametro va bene, però la punta finale, casomai ci sarà di un pezzo di tubo da 4 cm in modo da poter installare l'antenna sopra, perché l'antenna ha un bicchiere che si infila nel tubo, capito Giuseppe? Giulio, infatti sto segnando. Ok, anzi io guarda, io ti consiglierei innanzitutto di comprare prima l'antenna, così poi la vedi tu e ti vengono anche le idee personali per poter fare il lavoro nella maniera migliore. Il sistema che ti ha detto Mario è sicuramente il migliore, perché se c'è il sottotetto, guarda, è straordinario come tipo di lavoro. Fare il buco all'interno sicuramente ci sarà una gaffa in basso, però quella è alta è sufficiente al tetto per sostenere come ti ha detto. Se poi vuoi essere ancora più tranquillo dopo aver fatto la gettata del galone del cemento liquido, ci metti una pennellata di gomma liquida, di guaina liquida, e sei tranquillissimo che non ci passa nemmeno un goccio d'acqua, guarda, è una cosa fatta alla perfezione veramente, in maniera straordinaria come esecuzione di lavoro, capito Giuseppe? Oh Giulio, e così farò tranquillamente. Ok, così almeno risolvi questo problema e non se ne parla più. Ok, va bene. Antonio, c'è ancora Mario? Ah, io l'ho lasciato che c'era, poi stavo parlando con Giuseppe e l'ho lasciato un pochettino in parcheggio, ma penso che sia lì. Avanti! Ma che ci sono. Per montarla bisogna che la vedi com'è, perché va a innesti qua. Un innesto ci vuole la fascetta, è una passata di vulcanizzante per non entrare l'acqua. È fatta così la mantova, poi una volta che uno la piazza, il radiale bisogna mettergli su e a vedere, sono a vite sono, la conosco. Sotto c'è la cosa, c'è una specie di aspirale, una molla, dai. Quello lì c'è per tararla. Per tararla hai detto? Brava. Sì, va vabbè, ma non è proprio strettamente necessario. Giuseppe, ci sono i punti di riferimento, tu mi chiedi i punti di riferimento e va bene, perché sono già accordate direttamente dalla casa. Sì, si possono tarare eventualmente se ce ne fosse la necessità, ma se tu li metti sui punti di riferimento, guarda, l'antenna va già bene così. E così farò io. Ok, appunto. Ecco, importante quello che ti stava dicendo Antonio poc'anzi, vedi? Quello non mi ero ricordato, il titolo, nemmeno Mario si è ricordato. Quando tu metti gli stili, lo stile centrale, no? Che si innesta uno dentro l'altro, mettici poi una fasciatura di nastro autorefringente, in modo che fra le due parti, fra il tubo più sottile e quello superiore, quindi inferiore, perché mi sembra sono quattro tubi, se ricordo bene, non passi l'acqua, perché poi lì si potrebbe anche ossidare, si potrebbe, e poi diciamo che serve anche per avere una maggiore resistenza fra uno stile e l'altro, cioè fra un tubo e l'altro, capito Giuseppe? Ok, appunto, anche Antonio è attento al discorso appunto che abbiamo fatto e di conseguenza ti abbiamo dato una indicazione più che completa, suppongo, poi al limite non ci sono problemi, al momento di fare il lavoro se hai qualche dubbio basta chiedere, già siamo sempre in frequenza, dunque tu a chiunque trovi in frequenza puoi chiedere, un minimo di esperienza l'abbiamo fatta un po' tutti, dunque ci sappiamo consigliare. Ok, va bene, avanti Mario. Cappa, guarda, è così, adesso gli abbiamo fatto un po' di lezione, vedrai che quando lui gli arriva l'antenna e tutto qui, magari poi ci sarà, non lo so, magari ci sarà qualcuno di lui anche che andrà a vedere più o meno, o magari ci va Pomponio, tu, quello, l'altro, sai, l'esperienza vuol dire tanto, Punta l'antenna quella lì, c'è un coso, c'è una specie di ragnetto, che quello lì è un tappo per non entrare l'acqua. Molti li mettono un tappo, li mettono oltre a quello, li mettono un tappo in sughero dentro, rifritto di silicone, e poi li mettono il ragnetto sopra, perché dopo un po' di anni quello lì un pochettino si rovina perché è in plastica. È un tappo per non entrare l'acqua, dai. Sì, ho capito. No, aspetta, è un tappo per non entrare l'acqua, va bene, è un discorso. Però quello non lo eliminare mai, Giuseppe, perché quello lì serve soprattutto per la corrente elettrostatica, per i fulmini, in poche parole. Quello sembra una stupidaggine, invece è un elemento, un componente dell'antenna importante, quello. Perciò quando lo piazzi, fascialo anche quello con il nastro autorefringente, in modo che eventualmente se si secca la plastica non si perde per i tetti, diciamo, capito? Non te lo butta giù il vento, eccetera, eccetera, perché la plastica se sta dopo un certo periodo si secca e si può anche rompere. Va bene così, dai. E poi qualche altra indicazione, se poi vuoi essere molto pignolo, ma io te lo dico perché io ho il mio primo lavoro era proprio quello, facevo l'elettricista e facevo anche l'antennista nel contempo, allora ci sarebbe anche un'altra soluzione volendo, se ad esempio prendi la manta batturbo, io parlo della manta batturbo che ha i radiali tutti in alluminio, nel punto di giunzione dove si avvitano i radiali possono essere deboli, tra virgolette naturalmente, non è che sono che se non può da oggi a domani, però col tempo potrebbero anche ossidarsi e rompersi. Allora che cosa si può fare? Con un filo, una lenza quella che si usa per pescare, dal radiale allo stilo centrale, dalla parte più grossa dello stilo centrale, messo questo filo così non hai idea di quanta consistenza acquistano i radiali, soprattutto per quando si posano gli uccisi sopra, capito Giuseppe? Questa però è una cosa, diciamo, a livello di pignoleria, Giulio, sono perfettamente d'accordo con te, pignoleria è giusto che ci sia, però già con questi fili che hai nominato tu, con questi spessori di lenza, stai già dando una bella consistenza ai radiali, e quindi, che ne so, al posto durarsi, che ne so, 15 anni, se dura 25 anni. Certamente, ma questo te l'ho voluto posso dire, perché appunto io ho fatto l'antennista e so, diciamo, che è anche il mio primo mestiere, poi magari in seguito per questioni altrui ho dovuto cambiare o faccio tutto un altro mestiere. Appunto questa è una cosa che ti ho voluto dire, maturata con l'esperienza di quando appunto facevo l'antennista, tutto lì, niente di particolare, però ripeto, anche senza quel filo l'antenna ti dura una vita lo stesso, vedi Mario ad esempio, o vedi che io stesso ad esempio personalmente ho un'antenna che è a roba di 27 anni, ti puoi immaginare, e solo adesso stanno cadendo i radiali, è la Stellar per 16 radiali e ce ne mancano già la metà, perché appunto ormai si sono marciti i radiali e giù, ecco, tutto lì, capito? E col tempo si sa, si consuma un po' tutto, no? Avanti Mario! E soprattutto una buona massa terra, dalla zappa che metti nel sottotetto, una dalla gappa dove tu attacchi poi l'antenna per bloccartela, un buon filo di massa terra, in modo che se dovesse mai succedere, speriamo mai, se no ti brucia tutto. Perché non ti viene bene poterlo fare quello lì ti conviene dall'appartamento o da dove sia quello più vicino pigliare la massa terra del palazzo con un cavo e aggiungerlo anche lì. La mia fortuna è stata che c'ho la gabbia dell'ascensore, ho messo l'antenna lì e poi ho fatto un buchetto sottile sottile col trapanino, ci ho infilato una buona calza di massa terra e l'ho collegata insieme a quella dell'ascensore, in modo che se un domani dovesse entrarti un fulmine, anziché scaricartelo sugli apparecchi e via dicendo, te lo scarica direttamente sulla massa terra. Quello lì già è facile, ci sarà una colonna montante dove salgono tutti quanti i fili anche per gli appartamenti, e gli appartamenti non è che li hanno lasciati senza massa terra, no, se no sarebbero da restare tutti quanti, così che tu arrivi, la scatola della corrente che sale da giù a su, guardi l'ultima scatola che c'hai lì sotto la botola, fai un buco sottile sottile e ce lo fai passare, colleghi la massa terra a quella del palazzo, ne metti due mossetti e hai fatto, capito? Praticamente la allunghi la massa terra e la porti sino al coso dell'antenna. Sì, ho capito Mario, mi sembra che sia rientrato Massimiliano, confermi Massimiliano, sei tu? Sì, positivo, no, stavo aspettando che finivano il discorso. Ok Massimiliano, la bambina guarita, tranquilla, sì, l'hai calmata, stava piangendo, cosa è successo? No, niente, nel frattempo che la mamma la lavava, io, siccome stiamo iniziando a svezzarla era un po', gli ho preparato tutto il brodino che deve mangiare là, quando si sveglia. Ho capito, quella è la punta. È importante quello, già lo credo, la mia antenna è... vabbè, ma anche il discorso dell'antenna in questi casi era interessante affrontare, penso di averlo fatto nel migliore dei modi, dando un consiglio a Giuseppe. Va bene così, dai. Antonio, ci sei ancora? Sì, ci sono ancora. Adesso le misure non me le ricordo molto bene, le misure del capo. Attenzione, vulcanizzare il PL su, se no c'entra acqua. Vuole fatto bene. Adesso le misure del capo non me lo ricordo. Quant'è? Vabbè, il capo è la discesa che le necessita, quello ha un'importanza molto relativa, non è che sia lineare, sarebbe un'onda intera, cioè 11 metri, ma se a lui le occorrono 11,50 è chiaro che se ne prende 11,50 o se le occorrono 20 metri se ne mette 20 metri, chiaro, questo è fondamentale, questo sì. Sì, sarebbe più adatto se ad esempio se te ne servono, tanto per fare un esempio, 21 metri e 50 centimetri, sarebbe ideale fare 22 metri, cioè due onde intere. Ecco, diciamo che si può giostrare su quelle cose lì, ma se ne hai per dire, non so, se te ne occorrono 17 metri, non è il caso di arrivare a 22 metri, capito? 17 metri ne hai, 17 metri ne metti, non è quello. Quello non sarebbe un grosso handicap. Sì, vulcanizzare anche quello, certo, il PL è meglio se lo vulcanizza, in modo che anche quello non si usi, eccetera, eccetera. Anche perché il filo di discesa si potrebbe strappare col vento, invece vulcanizza PL e cavo tutto insieme e poi ripara anche dove va avventato con un vulcanizzante, con qualcosa, o addirittura con un tubo in plastica, ecco, sarebbe l'ideale. Io facevo così una volta, prendevo un tubo di acqua, un tubo di plastica prendevo, lo infilavo dentro il capo, ci saldavo il PL e poi infilavo il tubo di plastica direttamente, prendeva sia il PL che il bocchettone. Quello è il sistema migliore, in modo che un domani tu per qualsiasi motivo sfili il tubo e sviti con tanta tranquillità il PL dal bocchettone dell'antenna, capito Antonio? Ci sono i modi, i sistemi, e a voglia. Ma quelle tutte cose, ripeto, perché gli ho detto a Giuseppe che lui prima si deve ordinare l'antenna, così se ce ne fa un'idea e capisce da solo senza bisogno di dirglielo a nessuno come si deve fare, tutto lì, capito? Ok, avanti Massimo, dai, parla tu perché noi abbiamo parlato tanto, Già lo so che avete parlato tanto, e vabbè, purtroppo non ho ascoltato molto il discorso, comunque io quando l'ho messa, ritornando Antonio alle misure del cavo, se ti ricordi bene a me me ne sono serviti neanche, io ne ho preso 17 metri e 75 per esempio. E un'altra cosa volevo dire, quando ho acquistato l'antenna che loro te la danno già tarata nei segni che mettono loro, io una volta che l'ho sollevato sull'antenna, che era tutto a posto, siamo andati a controllare per stazionaria, il segno che non fatto loro mi dava 2,2 di stazionaria addirittura. Infatti abbiamo rimesso la scala e abbiamo abbassato la molla, capito? Adesso il discorso l'abbiamo o abbassato o sollevato un pochino e l'abbiamo fatto scendere a 1,1, perché a volte quando loro te la tarano non è proprio giusta, capito? Loro ti danno quel punto di riferimento, la tarano così, dicono a 7 centimetri, però io l'ho messa come hanno detto loro e mi dava 2,2 di stazionaria. Sì, Massimiliano, ti rispondo io. Sì, quello può succedere, sai quando? Quando tu metti l'antenna che non tieni presente l'ostacolo, sia in di fianco, cioè lungo i 360 gradi, oppure in altezza. L'antenna si dovrebbe sempre installare con almeno 2,75 m d'altezza da ogni ostacolo, sia dal tetto, sia da una casa che sia a fianco, e queste cose qua. Allora i punti di riferimento non sarebbero giusti, capito Massimiliano? Sì, ho capito, ma io dal tetto, proprio dal, diciamo, dalle tegole, là, in macchina, io da, diciamo, da dove ci sono, da dove partono i radiali, al tetto, alle tegole, diciamo, è 5 metri alta, né a fianco, né sopra, né nessuna parte. Sicuramente magari loro hanno fatto quel segnetto là, però una volta che tu la pianti magari a volte non te lo dà giusto, ho capito, le stazionarie. Sì, ci potrebbe essere della riflessione attorno a qualcosa del genere, che allora ti pregiudica anche quello. Sì, vabbè, ma sono tutte cose quelle che poi si dovranno vedere quando c'è l'altro. Poi se c'è bisogno di accordare, loro infatti hanno previsto che i punti di riferimento sono quelli, però c'è poi la possibilità di accordatura, non ci sono problemi. Questo allora con un rosmetro uno si accorda l'antenna come dovrebbe. Stavo dicendo, guarda, Massimiliano, che stai uscendo male di radio, sai, alle volte la tua radio si interrompe, devi avere qualche falso contatto nel tuo microfono. Va bene, dai, avanti, Mario. Allora, lo spinotto, dai, è questo qua, vedi un po', se l'ho fatto quando l'ho fatto il momento, vedi un po'. Sei frateggiato, Massimiliano. Qualche piccolo difetto di contatto, sì, controlla di nuovo. Mario, ci sei? Sto uscendo tratteggiato. Mi hai sentito? Vediamo un po' Giuseppe. Giuseppe? Eccomi qua. Mi hai seguito? Mi ho seguito attentamente, però Giulio, ti devo chiedere una cosa. Dimmi, non ci sono problemi. Il vostro passaggio dell'altezza dell'antenna sopra le tegole, e se non ho sentito male, un 2 metri. Diciamo che come regola per l'installazione si dovrebbe mettere un'altezza, una distanza anzi, da qualsiasi ostacolo, sia dal tetto che dal fianco di un'altra casa, eccetera, tutto attorno ad un'antenna. Come regola si dovrebbe mettere una distanza minima di un quarto d'onda, che è relativo a 2,75 metri. Capito? E allora a quel punto lì dovrebbe funzionare con i punti di riferimento che ci sono nell'antenna. Se poi, come in quel caso che è successo a Massimiliano, ha dovuto accordare quella molla, quella specie di cerchio che c'è nell'antenna, non ci sono problemi, regole da via e tutto si risolve, anche se c'è meno spazio, diciamo così, tutto attorno o dal piano di presenza del tetto, capito? Tutto lì, non è quello è una cosa che viene in seguito, perché tanto poi a un certo punto ci vorrà uno strumento per misurare le onde stazionarie, se tu non ce l'hai qualcuno te lo prenderà e allora si regolerà in maniera corretta con lo strumento o l'antenna, capito Giuseppe? Perfettamente Giulio, grazie. Niente, figurati, ci mancherebbe. Va bene, avanti Antonio. Sì, così. Quella di Massimiliano l'abbiamo piazzata insieme. L'abbiamo piazzata un po' tutti insieme, dai. È finito anche un bel lavoro, perché le zappe sono... Stai tranquillo che quelle non escono. Se non esci la capocciuria, le zappe non escono, perché quelle lì sono cementate al muro addirittura. Massimiliano, avanti, spiega come l'abbiamo fatto. Cioè, come l'hai fatto tu, dai. Massimiliano. Ti riprendo io, Massimiliano, evidentemente si è dovuto assentare sempre per la bambina, perché ha bisogno di attenzione, essendo molto piccola ancora. Ok, sì, ma è così. Ma poi un'altra cosa ti volevo chiedere, Giuseppe, tu quanti metri di filo prevedi che ci possano arrivare dal tetto, cioè dall'antenna a casa, dentro casa? Ma guarda Giulio, grosso modo, facendo un calcolo così a occhio, 16-17 metri, non di più. Ho capito, e allora ti va bene anche l'RG58, non è un problema. No, se no ti dicevo, se ci vogliono 40 metri di filo, sarebbe stato bene utilizzare un filo migliore, tipo un cavo migliore, tipo l'RG8, oppure il 213, oppure l'H100, sono i cavi che hanno meno distensione, però per 17 metri, 16-17 metri, tanto non hai problemi di grandi potenze, eccetera, che te ne frega. Va bene anche l'RG58, che è molto flessibile, ti viene bene. Se poi vuoi avere un qualcosa di meglio, allora devi comprare il cavo RG213, devi comprare, è più rigido, più grosso, non lo so, quello lo dovrai stabilire tu, secondo le tue, diciamo così, esigenze, capito, Giuseppe? Certo Giacomo, niente, adesso io vedo, perché grosso modo mi devo fare anche un'idea di effettivo quanto ce ne vuole. Dopodiché niente, ci faremo una chiacchieratina anche per il campo, perché io dico, se c'è da spendere qualcosina in più e avere un prodotto migliore che dura nel tempo, niente, la spesa si fa e via. Sì, avanti. Fatti bene. Oh, Giulio, vedi un po' se sto ancora uscendo a tratti, stavo sistemando un po' questo spirottino qua. Adesso no, molto meglio, adesso va bene, io ti sento bene adesso, vai. Anche io ti sento bene. Deve essere, adesso quando c'è un po' di tempo lo apro e vedere un po', magari c'è qualche saldatura che mi sta, tocca e non tocca, e magari a volte mi manca la radio, così. Era come quando tu, ad esempio, noi così spontaneamente ci muoviamo, no? Spostiamo il braccio con il microfono in mano, eccetera, era quello cracchiare che si può creare facendo quei movimenti, capito? Per il momento così. Un innesco graffiante sempre di peso dal tuo microfono, questo non lo so, non ho capito, ma ce l'hai. Qualcuno che l'ha chiamato. Giulio! Chi è avanti? Giulio! Chi sei? Vabbè, non interessa! Vabbè, fate, se non mi interessa. Se non interessa a me, figurati se vuoi interessare a te. Non fa niente, va pure. Avanti, vieni avanti, chi sei? Uscendo, sto! Già stai uscendo, io pure se stai uscendo. Ma non sarebbe Pacchisio per caso? No! Quando scala, Pacchisio, avanti! Antonio! Uscendo a pompa! Io volevo capire ancora se sto uscendo a tratti da Giulio, perché stavamo parlando in due poco fa. E appunto, infatti, poco ho sentito anche una sovraccavallazione di segnali. No, adesso sta uscendo bene, Massimiliano, non ci sono problemi. Caparroglio, va. Avanti, chi è questa voce da mattina presto col buongiorno? Buongiorno, Massimiliano, ben ascoltato, arrivi una bomba qua. Positivo, ciao Pacchisio, buongiorno, buon anno e buon tutto. Sì, mi cambiato tutto, a te e anche agli altri componenti che sono qua su questo canile, capito? Buongiorno a tutti, bene e brutti, dai. Ciao Pacchisio, anche se ti metti la museruola, ti conosco sempre, guarda, non ci sono problemi. Ciao Pacchisio, auguri di buon anno a te e famiglia. Ben entrato, ci fa piacere, avanti. Sì, io capo, là, fino a quando cammina nel baraccocco va bene, poi quando si ferma vuol dire non mi sentite più. Avanti, chi era? Dai, riprendi. Chi era che stava riprendendo insieme a me? Chi era? Ero io che gli ho detto che stava uscendo bene. Mario, abbiamo perso Giulia del tutto stamattina. Cosa abbiamo perso, Giulio? Abbiamo perso Giulia, che stava girando l'agnello con le olive. Penso per me, vuol dire che aveva altro da fare. Si sarà spaventata che magari qualcuno richiedeva di invitarlo, e allora ha chiuso. No, ma eravamo solo io e Mario. No, negativo. Almeno quello ci abbiamo a casa a mangiare. Positivo, Mario. Per sentire un po' qual è la qualità della tua stazione, mi interessa più che altro, non perché voglio sapere dove sei, Vai tranquillo, Giulio, non c'è nessun problema. Adesso mi trovo esattamente giù a Latte Dolce, vicino alle piscine. Già lo vedo dal segnale, già. Lontanati da casa, se no ti butto un secchio di pipì. Dove? Anche tu sei in zona. Diciamo che se sei vicino alle piscine, sei in linea d'aria 150-200 metri da casa mia, dai. Capito. Comunque io, siccome problemi non ne ho, io sono nella bretella di Papa Giovanni. Sì, Giuseppe, Massimiliano, se te lo vuole dire te lo dirà lui, a parte Massimiliano. Io lo ascolto basso, dai, ho Santiago di Uno, la radio bassissima. Io sono in zona di San Giovanni, e perché lo volevo dire, non è un problema. Vabbè, sta uscendo basso Massimiliano perché è in macchina e poi ha la magnetica, capito? Bisogna vedere come è alle prime armi e bisogna vedere come è stata installata anche l'antenna, eccetera, capito? Tutto lì. Avanti Giuseppe! Sì Giulio, come dicevo poco fa, io l'amico di San Giovanni lo sento, lo prendo abbastanza bene, cambio. Senti, allora io ti ascolto basso Giuseppe. Comunque da questa parte Massimiliano Bordeaux, telefono, buongiorno, ti ho ascoltato poco fa. Dai, qui c'è Santiago di Uno, a metà della bassina, però va bene, dai, l'importante è ascoltarci. Non so come mi stai ascoltando tu. Io ho di ricezione 7, di radio 3. Radio di 3, Santiago di 7, va bene, dai. Guarda che stai nuovamente gracchiando un poco con quel mic. Niente, Giuseppe, se tu sali la via che c'è a fianco alle piscine e poi scendi per pigliare la bretella, seguendo il curvone, la strada principale, l'antenna che vedi più alta e più lampante, quella è la mia. Vai, vai. Salendo a casa ci butto uno sguardo, così vi faccio anche un'idea. No, scendendo la vidi, salendo non la vidi, a meno che non sia sul cavalcavia. Bene, avanti, avanti Natalino col buongiorno. Ci sono sguardo. Ma era giù, si dirà domina. Ciao giù, buongiorno a tutti. Ti lascio della tua e buio, giuro che lo fa vedere con Giuseppe e non puoi interrompi la massa che te ne fai, tu lo chiedo, vai, vai. Ti lascio di lato come stai mai inteso, compreso, e poi se ti lascio di lato subito. Oh, prendata lì, dopo 40 anni quasi, non so qui, cosa vuoi? Uno non è che è solo. Però si già va bene, non pensavo di essere troppo alto. Ok, sistemando sai Massimiliano il microfono, perché infatti ha di nuovo fatto difetto il microfono. Vediamo, Massimiliano sta facendo il lavoro perché ha difetto il microfono, sicuramente, falso contatto eccetera. Oh, ma chi si va? Io canto della canzone, questi quelli di Buone Allegria. Sicuro che ti canto una canzone. Ciao Natali, buongiorno, ben ascoltato. E gaffa, cosa vuoi che ti dica? Che oggi sta piovendo. Antonio, vai, il più forte della tua voce. E grande il mio forte della tua voce. Domani. Ho sparato perché in linea d'aria. Ah, è buono, la porta se non lo posso fare da. Così non lo dici più che erano più forti. Siamo scala perché in linea d'aria siamo vicini. Oh, scusate un attimo, vedete un po' se sto scendendo bene adesso? Sì, questo passaggio è buono, Giulio Bullose. Allora, abbiamo cambiato la microfonia perché quello là mi sa che è andato. Mappa di positivo, questo è il più bello, più squillante. Questo qua è un microfono da banco, come ti si dice. Ah no, non fai come te Giulio, ho un microfono di Daura. Io di pratica, Mario. Gappa gappa, avanti Giulio. Ok, confermo Massimiliano, di lusso, anzi meglio dell'altro sicuramente. Non ci sono problemi, gli alluvivi. C'è il parcheggio Giuseppe ancora. Giuseppe, tu sei in mezzo a tutti questi amici, solo io e Massimiliano siamo distanti da dove sei tu. Suppongo che sei sempre lì nella zona di Lima Delta. Avanti Giuseppe. Sì, positivo Giulio, io sono ancora qui in attesa di salire per dare una mano in cucina. Ok, va bene, tutti quanti abbiamo lo stesso vizio, la stessa ambizione a quest'ora, l'una meno 20, dunque, fanno molto, suonano sulle campane un po' per tutti, no? Tutti a tavola. Sì, tu dici sia magnato, vero Mario? Gappa. E la madre che te bagatone! Ecco, se bacchi, se bacchi! Suona la pappa le stronza, suona la pappa le stronza! Pappa gappa, e allora è nata lì, Gidella? A casa sono, cosa in Gidella? Gatta, te lo prepari di burro a magna, ma ti lo conto! E chi ha mai di burro tu? Oggi a soco di turno, se no non ci si manca, la parte di bere è pura. Gappa gappa, io vado via tutto pronto, non ha di problemi, è vero. Ok, ricordo un attimo io giusto per salutare gli amici d'ascolto e augurare niente, a tutti un buon pranzo e a risentirci presto. Allora riprendo io, incomincio io a salutarti, ciao Giuseppe, grazie per il QSO che abbiamo fatto e ci sentiamo casomai alle prossime, dai, salutoni, buon pranzo, stasera se ci sei e se ti sento ti contatterò. Ok, avanti Massimiliano per Giuseppe che deve chiudere. Grazie, dai, ciao Giuseppe, se mi stai ascoltando, buona continuazione di giornata, ce la riascoltiamo alle migliori. Anch'io un secondino ne approfitto per salutare a tutti, agli ascoltoni e a tutti quanti. Ciao Natalino, a te ben tratto, io per il momento chiudo che qua in condizioni precarie. Avanti Mario, buongiorno e ciao. Ciao, buona carica, buon tutto e ci risentiamo alle migliori. Sì, a te e a Giuseppe, buon rientro a casa Giuseppe e buona carica, ci risentiamo alle prossime. Vai Natali. Ah, allora io ero certo solo per salutare, dai, che me ne devo andare a pranzo. E saluto tutti quanti indistintamente, ci sentiamo alle prossime, anch'io faccio QRT, dai, causa carica, alle prossime, ciao a tutti. Ciao ciao, buona carica, anche a te ce la risentiamo, vai Giulio. Ok, allora saluto Massimiliano che ha dovuto lasciare l'apparecchio per altre esigenze e saluto anche Natalino naturalmente, non ci mancherebbe altro che non lo facessi, alle prossime Natali, buon appetito sia a Massimiliano che a te. Avanti Bacchisio per gli amici. Ciao Gappa, dai, saluto Giuseppe, buongiorno, ben ascoltato, buon carico anche per Massimiliano e Natalino. Alle prossime risentirci. Bene, io ne approfitto del micro di fare compagnia agli amici che sono andati in QRT, anche Bacchisio se ne passa in QRT, causa trasferimento carico. Bene, bene, ciao Giulio, salutissimo, è stato piacere ascoltarti e anche a Mario Maser. Ok, buongiorno e buon proseguimento di giornata. Bye bye. Ciao Bacchi, buon trasferimento del carico, ce la sentiamo alle prossime. Buon proseguo di giornata, ce la risentiamo. Ciao ciao, vai giù. Ok, c'è ancora Antonio che deve salutare gli amici. Antonio? Gappa, sono a Bacchisio, a Giuseppe, anche a Natalino, ce la risentiamo alle prossime o più tardi. Ciao Bacchisio, ci sentiamo alle prossime, fatti vedere, già lo sai dove sono, non ci sono problemi. Ok, Mario, siamo arrivati soli, cosa ti ha portato Gesù bambino? Ehi, cosa vuoi che mangi al regalo? La muletta della luce da pagare. Ah beh, chissà la regata pure a me, chissà della luce, chissà di leva, la tassa mondessa. Da poi cos'è che mi ha regalato? Un telefono. E insomma, che cos'è tu io non mi ha regalato di premio? E vabbè, dai, l'abbiamo pagato naturalmente. Ah, adesso c'è da pagare anche la tassa del baracchino, c'è da pagare, ma quella la farò più in là, non ho problemi, non per i 12 euro, perché i 12 euro non sono così pesanti, perché non c'è fretta, insomma, ecco, c'è tempo tutto il mese, di conseguenza. Il numero a proposito, credo che sia rimasto il numero di conto corrente, è sempre lo stesso, niente che sai Mario, non è che Gianbardo non c'è niente. No, è sempre lo stesso, anche la quota è sempre la stessa, è sempre 12 euro. Ok, dunque non ci sono problemi, facciamo il versamento uguale a quello che si è fatto prima o in tutti questi anni, eccetera eccetera. Andava così, vabbè, comunque ti stavo dicendo, a me mi ha regalato Gesù Bambino, mi ha portato l'orologio nuovo. Pensare che io andavo con la coda sveglia in tasca, gli dico che mamma che avevo un piatto. Sta scherzando Mario. No, anzi dai, no, per che adesso quando mi siete. Giulio, è sempre lo stesso, è tutta la situazione, lo stesso indirizzo è tutto. Ok, via Brenta sempre, o via Simetto, come dice, non la metto più, se via, vabbè, già guardo le ricevute vecchie, non è un problema. Via Brenta o via Simetto, a proposito, com'è? Brenta, sì, Simetto era prima, negli anni passati. Sì. Ok, grazie dell'informazione, Antu. Sì, anche quella la facciamo, adesso a te quando la faccio quella risa? Adesso lo faccio esattamente il giorno 11, perché ti dico, mi spiego, perché il giorno 11 devo andare a ritirare la pensione, sì che faccio l'operazione, ritiro e versamento, così non perdo tempo, non faccio due volte la fila, eccetera, eccetera. Andiamo bene, vai Mario. Gappa, beh. Purtroppo Giulio, anche tu sei diventato vecchio, sei pensionato, e così è, ma meglio invecchiare, vero Giù? Io penso che sia l'aspirazione di chiunque, invecchiare, soprattutto cercare di invecchiare bene anche, che è la cosa più bella e più giusta, se vogliamo, no? Se pensiamo che c'è tanta gente, povera gente, mamma mia, mi vengono quasi da lacrime agli occhi, se penso a certe situazioni, per carità, ma oggi non ne parliamo di queste cose, se no diventiamo tristi, no Mario, raga proprio lì. Cappa di positivo, bisogna pensare sempre al bene, ma purtroppo, cioè io dico Visu, è meglio povero e sano che ricco che è malato. È facile, se non beccare ragione, se mi posso ancora meglio. Vero Antonio? Cappa, vero Giulio. Cappa di Rogero, Chiara Puggio, oppure una cosa d'agnone, ma è meglio di G, cioè è meglio il mojito. Faccio vedere. No, a me non mi piace molto, né un buchetto, né la, ne lo mangio qualche pezzettino così, ma no, niente di che. Se c'è una buona pizza di cavallo preferisco mangiarmi quella che la mia non buchetto, dico la verità. Beh certo, una bella fettina di cavallo non è da distressare, ma ci mancherebbe, io lo credo, perché no? Capita, è buona, come buona, e soprattutto è molto nutriente, è anche più sana se vogliamo del porcetto e dell'agnello, questo è scontato, vero Mario? Ma ti dirò che mangerei sia uno che l'altro io, senza problemi, non c'è neanche problemi per mangiare, è vero. Il porcetto e il cavallo sono due cose che mangio spesso e volentieri. Lo credo Mario, già lo credo. Io ti dirò che mangio tutto indistintamente, non ci sono cose che io non mangio, però ci sono delle cose che preferisco di più ad altri, questo è scontato, come tutti del resto pensano. Però diciamo, a me io non faccio mai una questione di cosa, di scelta qui a casa. Mia moglie qualsiasi cosa che prepara io la mangio e non mi lamento mai, anche perché mia moglie è una buona cuoca e sa cucinare molto bene, sì che, insomma in un certo senso mi vizia anche. Vabbè, vedo come va Mario, si fa quel che si può, tutto lì. Vabbè, come diceva quello là, l'importante non è vincere, è partecipare, capito? Che quando uno partecipa bene, tranquillo, sereno, poi le donne, guarda, sarà perché saranno donne, tutto un altro che si viaggi, però hanno una certa inventiva, non ti fanno mai mangiare la stessa cosa nella stessa settimana, capito? Inventano sempre o una cosa o l'altra o un'altra ancora, cioè hanno molto, come dice, il cambio. Non è come in molte case che si mangia solo pasta asciutta oppure solo bistecche o solo, no, invece molte donne ho visto che ce ne sono molto, che per dire, non so, la mangi una volta al mese e poi te ne dimentichi, se sta metà un mese, al mese che entra, perché hanno un giro sulla cucina molto, molto vario. Sì, Mario, no, in quanto a quello sì, è vero, non, lo so, ci sono tante persone che magari fanno solo il primo e magari il secondo lo fanno solo la notte, così, no, qui da sempre, ma non solamente adesso che io qua sono in famiglia indipendente da quello che può essere la famiglia di mia madre, ad esempio, mia madre è lo stesso, prima faceva il primo, il secondo, il terzo, la frutta, la insalata, così via, ma quanto a quello devo dire, grazie a Dio che abbiamo sempre vissuto distintamente da quel punto di vista, no? Babbo è sempre sacrificato, babbo lavorava tante di quelle ore, poveraccio, alle volte faceva anche 12-13 ore, anche 15 ore al giorno di lavoro, si ammazzava la barba mia. E devo dire che anch'io ho lo stesso carattere, allora cerco in qualche maniera di ottenere sempre il meglio qui per portare sempre a casa, senza gli sprechi senza le strafare naturalmente, Mario. Però regolandoci appunto in una certa maniera, capito? Capo, ma ho visto che in molte case è molto vario il mangiare, cioè un giorno pesce, magari, non so, oggi c'è sardine fritte, cioè sarre tu riso, o domani vai, non so, burbrudo, o l'italiano vai luminazioni, oppure la minestra di incisia, oppure la gravolazione suppugata, cioè come passi, non ne trovi mai uno preciso all'altro, capito? Ci sono famiglie che invece ogni giorno pasta asciutta, pasta asciutta, pasta asciutta, e diavolo, pasta asciutta cambia, no? Invece sempre lo stesso disco. Molte famiglie vedo che sono ben organizzate, pesce, carne, il coso, anche di quella roba sul gelato, tipo su piccini, però se sono freschi è meglio, va. Certo Mario, no, in quanto a quello devo dire che io ho la spesa per il mangiare non l'ho mai guardata, la verità, io mi piace mangiare, ripeto, non se ne lampo di cosa, perché non siamo nei tempi da poter buttare niente, no, nella maniera più assoluta, però qui si varia sempre, tutti i giorni si varia, un giorno il pasta asciutta, un giorno il minestrone, un giorno il riso e così via, no, e chiaramente un giorno c'è magari che so io il salsiccione, un giorno c'è la fettina, un giorno c'è la bistecca, è vario, insomma, perciò non in quanto a quello, no, a me non mi dolgono i soldi, non mi dolgono quando c'è da spenderli per mangiare, nella maniera più assoluta. Posso anche, diciamo, risparmiare su una maglia, su un pantalone, ma sul mangiare proprio no, guarda, questo no. E se non mi sciaro, Mario, non da meno. Io sono sempre per il buon vivere. Naturalmente non è che esco vestito la stagione, mi avrei visto tante volte, in una certa maniera. Però, ripeto, no, non ti dà un polina per il vestiario, mentre invece magari non faccio risparmio per il mangiare, capito Mario? Cosa voglio dire? Io devo fare il bianco perché è entrata gente. Saluto Giulio, saluto anche te Mario. Ci risentiamo più tardi o domani o quando. Se entrate più tardi ci risentiremo più tardi. Ok, bianco per me, salutone a tutti. Ok, a certo, ci sentiamo allora, dai, buon pranzo a te e famiglia naturalmente, saluti a Pierpaolo, ci sentiamo alle prossime, a stasera magari se ci incontriamo in frequenza. Ok, avanti Mario per Antonio. Papà, tanto, buona carica, buon tutto e ci risentiamo alle prossime. Gappa. Quando ti stavo dicendo giù? No, io, vedi, quando c'ho un pantalone per uscire e una camicia con un giubbotto a me va benissimo. Per questo della settimana sto lavorando, non mi l'ho più tenuta. Ah, beh certo, ci mancherebbe, gli auguri. è così Mario, sì, no, io sono fatto così. Può darsi che si è occupato male, che lo sa, ma a me mi va bene così, e alla mia famiglia gli va bene, ha trattato così dunque. E poi io posso anche, diciamo, cavarmela bene, perché non è che ho una grossa famiglia, ma siamo in tre, io, mia moglie e mia figlia, anche se qui molto spesso e volentieri ci sono sempre degli invitati, fratelli o parenti, a volte anche amici, eccetera, eccetera. E devo dire, anzi, a dire la verità, sto aspettando anche mio fratello che oggi saranno qui a pranzo con la famiglia. Perciò, Mario, lo magna non si rifiuta mai, né familiare né a nessun altro. Quando ci vuole e basta, perché è una cosa di primissima necessità. Poi il pantalone, se non è firmato il pantalone, può essere anche comprato in un semplice negozio abbastanza da buona, se sa, o addirittura comprato pure dalle cinesi, perché no? Tanto poi, come stavi dicendo tu, vai a lavorare, vai in falegnameria, ti vieni tutto di colla, di tinta, di bivolo, dunque non ne vale nemmeno la pena avere, se naturalmente ho anche l'abito buono, e se devo andare ad un matrimonio, mi posso vestire anche abbastanza elegante, questo sì, perché no? Certo, e non solo uno, ne ho più di uno, ma per dire, no Mario, però gli stricchi, appunto, proprio per il vestiario giornaliero, con abiti firmati, eccetera, questo non mi va, ecco, non mi va assolutamente. Ma allora, se tutto l'altro macchina, che uno è andato a lavorare, infatti, beh, molte volte mi è capitato, se gatto, Mario, ma se, per esempio, quando sei zappendo, non puoi abbandare in faccia a nessuno. Poi io dico sempre una cosa, quando qualcuno mi dice cosa, e vabbè, come vuoi dare la mamma, mi voglio capire anche più pena, e cosa me la butta a me? Allora, ho capito, sto andando a lavorare, non è che sto andando a fare le belle statuine, no? Quando uno va lavorare, certo, se uno va in un ufficio, in una cosa che magari c'è un qualcosa di interessante, diciamo così, allora uno vai, si veste bene, devi andare al dottore, mica puoi andare vestito da lavoro, vai vestito bene. Allora se si andare a lavorare, ma venuta ne va, e tanto tu esci pulito dopo 5 minuti e sei dietro di prima. Mario, io lo vivo, però ti dirò che io ho perso proprio quelle persone che ritrovo spesso vestite da lavoro, quelle magari anche sporche dal lavoro che stanno facendo, apprezzo di più quelle, Mario, che quelle persone che sono tirate di collo dalla mattina alla sera, che magari sono sbandati tutto il giorno e magari quando vanno al bar aspettano che un altro amico gli offra un caffè oppure l'amico che gli offra la sigaretta e così via. Io la penso così, Mario, e apprezzo moltissimo la classe dei lavoratori, no? Nella maniera più assoluta, anche perché so benissimo che chi mantiene in piedi la nazione è proprio la classe operaia, indipendentemente da altri, che ci sono anche altri lavoratori, perché anche gli impiegati, i dottori, eccetera, e sono anche quelli che sono lavoratori, però diciamo che il manico in mano dell'Italia ce l'hanno proprio i lavoratori, quelli a livello manuale, Mario. Gap di positivo, cioè praticamente chi manda avanti tutto siamo noi, né? Perché se non ci fossimo noi non ci sarebbero state manco i dottori, ma che se noi andiamo dal dottore paghiamo, vuol dire che siamo noi che stiamo capendo i dottori, o mi sbaglio? Infatti è così, perché così siamo noi che campiamo il dottore. E poi ti dico anche un'altra cosa, se noi alziamo Lugabo e guardiamo un po' in giro, sollevando la testa per vedere ad esempio anche le case che ci ritroviamo attorno, le strade, l'illuminazione, le macchine che circolano, tutto quello che noi vediamo, anche le persone con tutti gli abiti, i vestiari che hanno addosso, con la valigia grande facendi, tutto quello è stato costruito e fatto sempre dall'operaio. Di conseguenza non è vero la ragione per cui l'operaio non debba essere apprezzatissimo da questo punto di vista, Mario. No, vedi, che per l'altra società tu sei semplice falegname e non sei uno altolocato come loro, e sono dottori, tu non sei geometra, non sei ingegnere, non sei dottore, e ti guardano a te, ti guardano a te, se tieni, ma non a te come persona. Dicono questi qui sono gente così e da voi non sanno che siamo noi che campemmaetti, anche quando andiamo a fare una visita che si domandano di 50 euro quando sono andate e ve ne diamo noi di 50 euro, hai compreso? Così che pure se non avremmo la quinta dottori, forse anche voi ci siamo disegnati denti. Ma io gli dice, no, ma che buccia, io gli dice sempre, permanentemente, Mario, perché è lo stesso discorso di casa quando noi andiamo per dire sulle macellerie, dove gli dice, niente, andai, e alla macelleria, e mi faccia due fettine, non me le faccia molto grandi, no, troppo grosse me le sta facendo, non me le faccia più sottili, e invece quando andavo a trovare a noi, esce un chilo di fettine, che tu voglia comincia a tagliare, quando ha pesato sono diventato un chilo di due, un chilo di tre, un chilo di due, so, da restare a fottidini, Mario. È proprio così, Gio, è proprio così, che io quando vado in macelleria mi ho messo da Gio la suscia, anche pure la trabuscia, sono andato a fare il fornimento delle gare, si è preso 200 euro delle gare. Come direi, non c'era mai niente in una buccia, c'era rimuni, c'era buona la base, sì, però che andrò al tuo, dammi 3 chili di ghiso, dammi un chilo di ghiso, dammi mezzo chilo dell'altro, e così che ti vai tagliata alla provvista, e nel recci, e due fettine, ma mi raccomando che non siano grasse, che non siano troppo grandi, cioè mangiare quello coso, quello conta gocce. Quando non prende niente però, mangiando quello contagocce quando non prende niente. Tu non mi state a casa tua, mi sono mangiato quello contagocce, più se la manca se mangia, non ci sa niente. Cappa del positivo. Allora, è così, no, molte volte io guardo così, ma mi devo sempre se cappa la risa, per carità. Perché cioè sono quella gente che e poi noi che travagliamo grazie da voi, ma devo senza mai dare in buon mare, per carità, no. Comunque, no, io ho mezzo voce non lo so, come anche possanzi. Ah beh sì. Beh Mario, ti devo lasciare, dato un paio di vita, come ti stavo dicendo, stavo aspettando mio fratello qua che oggi è a pranzo qua con la famiglia. Va bene Mario, grazie per il lunghissimo consiglio, è stato per me un bel divertimento, non si può che dire. Siamo più di un'ora, un'ora e mezzo forse anche di più al baracchino, è un grande consiglio, bellissimo, le persone si sono portate tutti i regiamenti, mi fa piacere per tutti e soprattutto non abbiamo sentito portanti e sembra che abbiamo messo in giudizio un po' tutti quanti, generalizziamo adesso, no? E così va bene, dai, mi piace così, mi piace molto, molto, molto, molto. Mario, buon pranzo, ci sentiamo eventualmente stasera se ci sei in frequenza e se ho modo di accendere anch'io il baracchino. Dai, alle prossime, grazie ancora Mario per il consiglio, per me QRT e buon appetito per te, ciao. Ciao Giù, buon appetito anche a te, saluto in famiglia, ce la risentiamo alle prossime, va. Buon proseguo e buon tutto, ce la riascoltiamo, ciao ciao. Ok, Davide, cioè, saluta mia Davide. vedere anche, oh Mario, che l'ultima volta che l'ho visto l'avevo visto nel coso, mi ero un campanello, arrivi da là, io gli intendo una macchina un attimo va sotto la Baconi, e adesso hanno suonato il campanello, mio fratello. Stavo dicendo, l'ultima volta che l'ho visto l'avevo visto da Franco, il nostro amico, no, è in quel laboratorio famoso, e da quell'ora, da quel giorno non l'ho più visto. Salutamelo e a fargli gli auguri da parte mia. Ciao Mario, a risentirci, ciao. Ciao ciao, grazie da parte sua, va. Ce la risentiamo, ciao ciao. Attenzione, falsetto. Falsetto. Attenzione, falsetto, CGC, Cappadocia. Falsetto. Attento, falsetto. Falsetto. Falsetto.